fratello va. E quando fratello non ha fatto di questi lavori. Ah, si è fatto ancelli, questa roba qua, non ha fatto di baracchi. Questo l'ha fatto lui, mica, sicuramente che io. Ho capito, però non è vasi più. Non è giusta più. Anche io gli portavo l'Antonio a farmi fare i lavori. Ma non ha fatto la vera. Se ne prendi più nulla se fai isso. Guarda perché. Lo fa per gente di casa, ma non è che l'ho fatto tutto. No, non sta facendo più nulla da quanto sa Puzzo, gli afferma anche lui. Va. A proposito, sono messo l'antenna, poi non l'ho più sentito Antonio, che fine ha fatto? E cosa adesso? Guarda, io non lo vedo da almeno, non dico bugie, da ottobre non lo vedo. Se magari sarei impegnato col lavoro. Siamo fratelli, ma anche al telefono non sento più. No. Ma anche al telefono ho sentito, figurati, neanche mia nipote. Ho sentito da come sta. E tu chiamalo, no? Se non ti chiamano, chiamalo tu. Aiuto, Chris, chiudi il baracchino con noi di parlare, dai. Ascolti, tutti ti schiaccia fra un po', Chiudi il baracchino. Ciao Gianni, mi ascolti? Certamente che sì, buonasera. Pensavo di no, vabbè, dai, vuol dire che già sta ancora funzionando questo birichino. Ciao gara, dove sei? Rientrando a casa, adesso sono arrivato nel piazzale, sto parcheggiando. Tu come mi ascolti? Abbastanza bene, Gianni, abbastanza bene. Va bene. Avanti, break. Ti ascolto abbastanza bene, dai, Santiago, Sento però questo barattino è un po' amaro, che l'ha ruggito, non è un segnale vero, là. Tu come mi ascolti? Aspetta, chiamo Claudio, mi ascolti a me? Aspetta già un attimino se mi ascolta, Gianni, Claudio, mi ascolti anche da qua, va bene, là, volevo sapere solo quello. Giovanni la scimmia, Claudio, Giovanni la scimmia, dallo Gormano della Bocca. Il controllo della camera l'ho capito perché ha parlato sotto l'avico, quindi non sono riuscito a capirlo. Ciao, va bene, già va bene. Cappagappa, c'è qualcuno che ha messo la portante o non è uscito? Boh. Io faccio sempre di più che sto guidando, dai ragazzi. Gianni, mi senti? Sì, allora. Ecco, 1, 2, 3, provo di modulazione, come mi senti? Bene, bene. Quale SMI sto provando? Ti sento bene, Tony. Con l'SMI? Yes. Anche se non vedo stanno bene in speciale, però. È un po' di innesto, c'è. Appa che ti ascolto. Tutto bene, siamo invecchiati, sono in pensione. Ma sono 5, però un baracchino è andante proprio, dai, non è un baracchino come prima. Attenzione, Tony Rosa, già la scimmia sono io, ho detto. Sì, attenzione, Tony Rosa, Tony Rosa, se mi ascolti qua. Questo, buonasera, non è un carro, è il canale dei camionisti. Camionisti, per cortesia, sul canale 10. Va bene, cambio basso. Tu da portatore se arrivi basso, Tu da portatore se arrivo basso. Buonasera a tutti. Ciao Eugenio, dai, io sto chiudendo, scusate, ma sono entrato così in cionfra. Ciao Eugenio. Chi sei? Crocro. Gianni, arrivo a tu, ciao. Ciao, chiaro. Va bene, dai. Dai, io faccio la telefonia. Sentiamo dopo già, ripeti. Ehi, vabbè, là, con la carica, che ne so? No, è oltre da mangiare i cani. Ah, sta pagando. Vabbè, là, Eugenio, avanti. Ciao, buonasera. Chi è che sta andando a mangiare i cani, che lo sento proprio bassissimo? Non ho capito manco io, sa. Vabbè. E allora, chi c'è che sono entrato così di... la rovesciata? C'è Muros, c'è Tonino Kawasaki e via dicendo. Vai, perché... Tonino Kawasaki, buonasera. Tonino, ascolti, che tu si deve essere assentato, va. Ma pagata, ma il produttore mi ha detto che non è molto... che non arriva bene al produttore. Proviamo un pochettino adesso che ha messo la mano, ma Tonino? Ecco. E oggi io quando ti arrivo lì a produttore? 9.5. Va bene, dai. agli 8 con 10 watt, non 25 va bene con questo apparecchio. Questo apparecchio va molto bene. Yeah. Alla grande. Ma fatti becco. Buonasera, Lubrofetta da questa parte. Ciao Gianni e ciao Genio. Mi serviva un controllo, ragazzi. Ciao già. Santiago 6, Radio 5, a prodotto adesso. Bene, bene. Ciao Genio, buona serata, ben entrato. E tu già, come mi dicevi, cambia. No, io non te lo do il controllo perché ho lo spitzer che non va bene. Non te lo posso dare, ti devi una fesseria. 9:20, Radio 5. Bene, bene, bene. Ciao California, buonasera, ben sentito anche a te. No, volevo, ho rimesso la mia vecchia radio, volevo sapere se stava andando tutto bene, dai, non volevo disturbarvi, dai, un salutone circolare a tutti, dai, buona serata ragazzi, io scappo. Ma tu lo sai che non ci disturbi, resta se vuoi restare, non c'è problema. Mi piace di più con l'Urano, spero, eh. Yeah. Mi dispiace, però l'Uranus ti rende più la voce tua. Va bene, comunque. Franco California, buonasera. Ciao Gigi, buonasera. Buonasera anche all'altro amico, non ho copiato chi era. Gianni Buffetta, da Sassari. Ciao Gianni. Come ti sta arrivando lì a Porto Torres? Quanto Gianni, 9:05. Capa di positivo. Quanto volte stai usando, Fra? Io sto scendo liscio già, 5 watt. Anch'io sono liscio. Dai, abbassate, cosa lisci? Sono io, dico la verità, io sto uscendo con 10 watt. Con 10 watt. Dite la verità, come si discendi? Dite la verità. Io sto uscendo con 5 watt, Eugì. Io con 9. Oh, lo vedi. Oh. Fra. Abbassa, che si è abbassata anche la, come si chiama, c'è forzante, si spegne il televisore e si abbassa la luce a casa tua. Addirittura. Tu faccia vai, minimo 300 va. Cosa sei di zente? Cosa sei di zente? Tutti vai tranquillo, 5 watt modulati io. Allora ci butto via l'antenna io. Non mi credi? Ah, cosa ci corvate? Non di fesseria, io. Non di fauli. Se ne arriva lo stesso segnale tuo, scusa. Lo so, che arriva lo stesso segnale mio. E quindi, cos'è? Quindi se arriva lo stesso segnale. Siamo la zona tua, anzi dovrebbe essere più aperta. Aspetta, no, errore mio. Tu arrivi a 8, modulati a 9, sali. E Gianni, doppio rum, sale, da 9:05. Quindi Gianni è più forte di me. No, ma se dorragumente Gianni, 9:05. Stai toccando qualcosa, perché poco fa eri a 8. Modulati a 9, ma se è a 9:05 fissi. Guarda adesso a vedere, sempre a 9:05 so. Sì. E vedi già, lo stesso segnale. Ehi. Passa quindi. Non vi credi, più in lontananza me ne accorgo più di voi. E quando io sto scendo, 5 watt, puliti. Adesso sì, adesso sei a 8, ma poco fa ho aumentato un po'. Flacco furbetto, siamo a tu io uguale. Sempre 5 watt modulati? No. Quanto è sempre 9:05? Adesso abbassa e scendi a 8. Guarda un po'. No, sei sempre lì. Aspetta, Guarda adesso. Sei salito a 9:30, però la radio faceva schifo. Senti la luce di Buonoga. Doppio ru. Come aumenti qua? Mettono in moto le palle eoliche di Fiume Santo per dare più energia. E troppi watt, e lo lasciamo spento, se no la corrente in occhi. Adesso fa proprio arrivo. Adesso schiaccia. Prova a vedere, 1, 2, 3. Sei 9:10. 9:10 piedi. Modulati sale anche al 15. E così sono normale, differenza c'è. Ho voglia. Gabba, va, così sono normale, lasciamolo così. E così quant'è oggi? Vedo un po'. Ma sei sempre a 8. Picchi positivi, va. però adesso si vede che sta uscendo normale, 6 a 8 come moduli sale un po'. Vabbè, sto usando un altro apparecchio, aspetta un attimo. Guarda un po', 9 modulati a 5, come è aumentato? K, andava. Tutti qui lasciano i magnari, c'è lì. No, sto usando un'altra radio oggi, non sto usando quella che poco fa. So che ce l'avevo un po' di tempo ferma e la sto provando. No, ma già sta andando bene, alla grande. Come è aumentato, si è visto alla grande. Ciao, Franco di Sorso. Ciao a tutti. Tutti qui là c'è vedi bagnati stasera. E tu sei da Frusci, ciao fra. Io a Frusci so. Sei a Fischi. Faccia a te le signorine quando passano, non fischiarle. Mamma mia, avrà. E che adesso? Qui a... sono qua a Fischi. Ciao Franco, buonasera, stai fischiando di brutto. Ehi, ciao. Allora, tieni, allora. Fra, la radio com'è? Com'è la radio? Già è buona. Adesso, ma lo California adesso è abbassato, si vede, però arrivi sempre bene. E sto usando, adesso sto usando il 48. Sì, Santiago sì, col 48. Si vede come il segnale, come aumenta, abbassa. E K. Lo sto accendendo anche questo, che era sempre il vemo. E come mai sei più basso, fa se 48 da watt, da più watt del sud? Cosa già? Ho detto, come mai sei più basso, sei il 48 che c'hai da più watt del sud? Perché lo sto usando con bassa potenza. E tu metti l'alta a vedere quanto arriva. Aspettate, piano, Franco di Sorso, avanti. Ehi, ho detto, ancora sto fischiando? Sottofondo si sente il fischio. Che cosa è successo? Ora, cambio. Bello quel 48, bello, mi piace. Fammelo fare. Gaba e gaba. Attento Gianni, doppio russo, ascolti qua, capo. Camionista. Ah, io facciamo l'affare, che mi serve un 48 buono per il camper. Franco, mica ce l'avevo che la sta facendo fare stasera un 48. Aspetta che provo, cambio. E come sta, Eugenio, lo senti? No, adesso va bene, sei come prima, sei come sempre. Ecco. È la stampante, come ho toccato la stampante, che me lo fa. Ma ti sto arrivando Eugenio lì da te, capo. Questo modulati 9, capo. Ah, va bene già, capito. Adesso l'ho messo a massima di potenza, 15 watt modulati, capo. Ah, si è fatto il 3009, come va, che sembra un vecchio realtà. Bello, mi piace. Aiuto, fatti un amico, Franco Califò. Cambio a basso, attento, preco. Fatti un amico, Franco Califò, aiuto, arregami a casa. No, non lo vendo questo, oggi. Non lo vendo, capito? Adesso ho tolto l'ecco, posso escludere anche il bippi. Qua. Adesso senza bippi e senza ecco, capito? Ehi, andavè, cagito, regami a casa. Cosa te ne fai oggi? Nel camper lo piazzo, nel camper, che mi diverto con gli altri amici. Poi c'è anche il 45, canale sotto, sopra. Bello, quello è modificato colto, così è. Capa di positivo. Ah, io ti porto a cena fuori, No, lo vende UG questo. Cosa devi fare? Ne hai mille lì. Cosa mille? C'ho questo e basta. L'altro l'ho venduto. Gianni, ma tu sei col bip. Non sta uscendo il radio. Sei tu, non sta uscendo il radio. Eugenio. Ehi, ecco. Adesso lo sto scappando, ancora adesso fischia. Sì. Sì, sì, sta fischiando. Non capisco cos'è. Prova a modulare e tieni con la mano lo spinotto del microfono. Franco. Dimmi, scendo. Gianni, aspetta, ma si stai uscendo adesso. Poi. Franco di Sorso. Secondo me è mancanza di massa. Gianni, dottor Roma, non sta uscendo in radio. California, regali s'apparato, lampade uso tu Gaza. E che cosa ne fai? Niente. Mi piace averlo nel camper, con l'eco, non risalti nel voccio. Ecco. Perché poi sono in cuffia, vanno lo pratica. No? Ma non è fede. No, adesso no, adesso stai uscendo alla grande, proprio qua sei 9:10 e hai il segnale di sempre. Non lo sta facendo. Ok. E vabbè. Peggio per lui. Ti ha fatto il 440? No, 80. Allora leva il guscio e mi viene da appoggia un cacciavite dentro, poi inizia a toccare qualcosa. Qualcosa succederà. No, basta buttarci un secchio d'acqua dentro. Anche. Però ti ho acceso, Beh, allora. Non è buon aprire la E lo scegli di più 4. E a California quando ce n'è? No, deve essere qua. Franco California, cambio. Aspetta un attimo, Eugi. Vedi un po' adesso il segnale, quant'è da te? 8 picchi positivi. 8. Guarda un po', 1, 2, 3. 9 picchi positivi. Però hai cambiato un po' la radio, eh? L'ha cambiato pure, guarda. No, fa schifo, è troppo compressa. Si sta mangiando la radio. È troppo ingresso gli ho dato, aspetta, Fermo. Guarda adesso, 1, 2, 3. Va già meglio. E uscendo so adesso. Cambio basso. Sì, Franco California, adesso va bene. Sì, stai uscendo adesso, Gianni. E allora il microfono, ho cambiato il microfono per vedere se era quello. La batteria scarica deve avere, dai, cambio la batteria. Va bene, Franco California. E dimmi oggi. Ah, ok, adesso va benissimo. Però il segnale è 8. Come aumentavi la modulazione all'inizio faceva schifo, poi ha migliorato parecchio. Perché gli avevo dato troppo ingresso, gli stavo dando 10 watt d'ingresso, dovevi pilotare almeno con 4 o 5, con 4 va ancora meglio. Non ho capito. Però le attacco, se no le bullette, no, ghiuia. Sorso City, ci sei? Sì, ci sono. Sto attaccando una radio che avevo staccato poco fa. La sto riattaccando. Pensavo che era lì che mi dava fastidio. Ma adesso stanno bene, Non sto più fischiando. Hai levato qualcosa che magari che entrava dentro il microfono, no? Siccome ho fatto una modifica qua, mi ho avvicinato alla farfalla perché c'è molte volte mi dovevo alzare per prendere i fogli o per accenderla, spegnerla. E allora l'ho messa più vicino, però capita. Mi uscite che alternata. Ma adesso va bene, adesso va bene. California, ma io vado a quanto arrivo lì? E oggi, Santiago 9, 8:30 a picchi di 9. Ah dai, va bene, va benissimo. Va benissimo. Ma vai a un controllo di radio, fa la cortesia, buonasera a tutti. 59+20, radio Super 5 è qua. Anche da te, oggi. Allora, radio Super 5, è inutile che controlli tu la tua radio è lissa, poggiamo il microfono, te l'ho sempre detto, la radio è sempre lissa, ignorante, bella prepotente, ma con un portatore secondo me non attacca, il segnale è 7. Ma io beh, il segnale è quello che stanno con 10 watt. No, sto provando una Monesi AV508 col 430, volevo sapere se... perché c'era un disaccordo, adesso ho messo tutto a posto. chi c'è? Anche Franco da Sosso, che conosce la mia modulazione come te, come Franco di Sassari. Franco di Sosso, la mia modulazione è questa? Quella sempre, ciao qua. Sempre quella, sempre bella. Ciao qua. Va bene che va bene. Ok, vi ringrazio, continuate pure e ci sentiamo dopo se coincide. Ciao ciao. Via, ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio, a dopo, dai, saluta in casa, ok. E oggi adesso com'è la radio, va meglio? Sì, bella, va bene, io ti ascolto molto bene. Io non ci ho preso, chissà come fa Claudio, acciamba i microfoni e la voce è sempre quella, non cambia mai. Se io dovessi cambiare il microfono, se ne accorgete subito che ho cambiato il microfono. Lui, la voce è sempre quella. È un dono di corde vocali. Cosa fa? Quello è un dono di corde vocali. Ma dico, può cambiare mille microfoni, la voce è sempre, la modulazione è sempre quella rimane. No, un altro fa non te ne accorgi. Ma la timbrica della sua radio è così, capito? La voce è sua, capito? Ehi, comunque là. Va bene. Ehi, fra, comunque stai uscendo bene, in California, stai uscendo la modulazione bella chiara. Vabbè, adesso sto pilotando la MB più 4, con un'altra radio, Capito? Perché ogni tanto unisci una radio dalle due lacci gugnose. Ogni tanto li accendo, altrimenti si rovinano, capito? Qua io ho solo questa, uso solo quella, le ho fatte fuori tutte. Anzi, mi è rimasto un portatile che mi serve, l'Alan 38, il mitico l'Alan 38. Portatile ne ho due. Ma è l'Alan 38? E uno 40 canale della Intec, due portatili 40 della Intec, ciò. Mi serviva proprio l'Alan 38. Ho dato un baracchino di avverso che mi ha dato l'Alan 38. E vabbè, se lo usi, il portatile, io non ne utilizzo portatile. No, vabbè, questo mi serve per quando usciamo con un amico che non si vuole bucare il camper. Lo do a lui, capito? Ho capito. Scusate un attimo. Ciao ragazzi, ci sentiamo, vai. Sono che andiamo a mangiare. Ci sentiamo, ciao Eugenio, ciao Franco, anche a Gianni. Ci sentiamo, ci sentiamo, eh? Salutami tutto il sorso, un abbraccio a tutto il sorso che sarà sicuramente tutto illuminato, ciao. Sì, adesso da qua sopra gli butto una granata e incendio tutti. Ciao Franco, buonasera, ce la riascolta le prossimine, buon carica, dai, io mi assento un attimino. Ciao. Proprio Rum, ci sei Gianni? Che trovi mille apparati, Gianni dai mille apparati, abbattiamo così, Gianni dai mille apparati. Attento, doppio Rum, quello dei mille apparati, ci sei? Ora. Ma sto uscendo. Dove stai andando? Dimmi se la radio la senti. Se ti sto rispondendo. No, non sto uscendo. No, c'è solo il beat, non sta uscendo. No, me la vado a mangiare, ciao a tutti e ci sentiamo, ciao. Chi è? Ciao Carlo. No, sono Claudio. Luca, dove sei? Infatti arrivo un po' basso. No, non sei basso, non è il segnale tuo. Santiago 9, sì. Se via Politecnica arrivi basso. Dovresti arrivare di più. Comunque, va bene, ti ascolto. Chiara. Ma addirittura il segnale è forte. Così forte so. Io esco pochi watt, sì, watt, a questa radio, 7 watt. Ah, no, vabbè, vabbè che siamo vicini. Allora, a differenza tua, tu arrivi più basso, capito? Tu no, fai, mi dai il fondo scala, c'è qualcosa nell'antenna. Cioè, c'è qualcosa in trasmissione, là, non nell'antenna. Vabbè, poi dipende anche dall'antenna, ma la ricezione è buona, ma in trasmissione no. E già arrivi male così a casa, faccia se metti una 5 ottavi. Vabbè, no, già... Sì, cambia, però dai, diciamo, non è che cambia... vabbè, ormai se non metto l'effetto, non fa. Hanno buono. E anche io devo fare la cosa dall'antenna. Devo buttarla giù. Pulirla. Chissà se riesco a smontarla. Oh, so. Stiamo a riprendere le staffe, dai. Faccio le staffe nuove. Così è più sicuro e tutto. Vediamo. Vediamo quando sarà. Ci farà. Sennò se ne rimane così e buonanotte. Poi devo stare lì a stirarmi con l'antenna. La paura c'ho che c'è il cane, cioè del resto non va bene così. Infatti, lo so. Ci vuole sempre il suo tempo, sempre. Per ogni cosa ci vuole il suo tempo. E la via, diciamo, è un po' un casino adesso perché prima di tutto non ho un faro telescopico. Telescopico sì, però ho bucato, parte in parte ho messo un bullone lungo, uno da una parte e uno dall'altra. Sicuramente quei bulloni sono arrugginiti, il palo lo stesso è arrugginito, perciò quel palo lì non viene giù, e per me sarà un casino, perché il palo è pesantuccio, e prego l'antenna, fatti conto, sono 7 metri di antenna, più 4 metri di palo circa, c'è 11 metri di roba. E vai tranquillo, ciao, buona cena, alla prossima, dai. Qua già è acceso, ma sicuramente mi addormenterò. Ciao Carlo, ciao, saluti. Perché sempre 1, 2, 3 prova, non più ru. Com'è la radio, Luca? Bella già, normale, bella. Questo è Superstar, sto provando perché c'è un filo staccato. Superstar come il mio? E allora, però io l'ho preso nuovo, E vabbè, il mio gli ho aperto la LC, già. Il mio c'aveva lo smitter secco. Quelli sono tutti così, anche il mio è così, Luca. Lo smitter secco c'ha. Però già vanno bene, si sente bene. Allora, guarda, io mi trovo non bene o di più. Bello, un bel apparecchio, bello, bello, bello. Questo mai lo venderò. Anzi, guarda, ti dirò una balla. Se riesco a venderlo me lo prendo nuovo di pacca però. Io ho fatto così, quello di Eugenio me l'ho venduto a 150 e me l'ho preso a 170 nuovo. Lo voglio prendere nuovo, almeno, perché questo qua c'ha i tappi graffiati, poi c'ha qualche pomello difettoso, la mascherina un po' graffiata, ho capito. E adesso vediamo. Se riesco a ricavarmi i soldi che ho speso io l'ho pagato 135 mi pare. Io Luca c'ho tutti i pezzi di quelli che ti servono, mascherina, coperchie e tutto quanto. Se facciamo l'affare ti ridò. Nuovi e nuovi di zecca. E boh, mi saprei quanto vuoi. Io ci mettiamo d'accordo, dai. C'ho tutto. C'ho mascherina, qui c'ho la mascherina e cosa ce l'ho di sicuro, i coperchi nuovi ce li ho. Eia, fammi sapere se c'è qualcosa, facciamo uno scambio, boh. Non lo so. Te l'avevo anche già detto una volta, per vedere se mi li vendevi, per vedere quanto volevi, boh, non so. Devono essere nuovi già, tanto vale che io, lo voglio far diventare nuovo, Luca, sono nuovi di zecca, nuovi, non c'hanno un graffio, niente, perfetti sono. Anche la mascherina, nuova. Poi vieni di guarda, non c'è problema. Poi vabbè, non lo so, vediamo, no? Ci metteremo d'accordo, struzzi, dai, va bene. Poi non lo so, se mi ci c'è qualcosa, boh, vediamo, da. Se, boh, non lo so. Aia. Vabbè, diamo un primo baghissimo, dai. Perché se no l'avevo già deciso di venderlo e prenderlo nuovo. Così dopo lì nella staffa gli metto le guarnizioni, così non si graffia dove c'è la staffa, dove vai a avvitare quelle manopole, quelle manopoline. E niente, a me si occupa giù di temi già, che ti inviate di cose nuovi. E vabbè, se lo vedi mi dici vero è, dai. Lu, ci sentiamo, dai, che vado a portare il cane. Quando vuoi vieni, te lo prendi, dai, poi ci mettiamo d'accordo. E adesso vediamo, magari un sabato, se ti seguo faccio un salto, dai. Perché sabato la macchina, non sabato è andare, esatto, cos'è sabato? Ragazzi, oggi è 22, sabato è Natale, una domenica o no, domenica è festa, boh, non lo so, un martedì, dai, ci aggiorniamo, ciao. Vabbè, dai, ciao. Mmm.